Con Silvia Gribaudi, autrice dello spettacolo Rosa, 10 esercizi per nuovi virtuosismi che vede in scena Claudia Marsicano e sarà in scena il 23 e il 24 febbraio al Funaro di Pistoia. Silvia, benvenuta. Benvenuta, grazie mille. Ce lo descrivi brevemente? Sì, allora Rosa è uno spettacolo che è nato nel 2015, ha debuttato nel 2017 e mi scuso se sono in treno, per cui sentirete dei rumori vari del treno che comunica con noi. È uno spettacolo che appunto, come hai detto giustamente, vede in scena Claudia Marsicano e ha l'obiettivo di parlare di che cos'è il successo e in maniera sicuramente ironica e mette al centro il corpo. Come coreografa e danzatrice ho sempre lavorato su quello che è il corpo, dandone priorità a livello comunicativo, e anche in Rosa, questa volta che insomma non sono più in scena e quindi c'è Claudia che rappresenta e porta quello che è quello che la danza rappresenta, che è proprio andare oltre alcuni aspetti del movimento, riuscire a portare libertà, leggerezza, quindi è un po' questo quello che Rosa ha come obiettivo. In realtà il titolo è R.Osa, quindi è Esatto. proprio un invito a osare, non tanto nell'esporci per quello che siamo, ma proprio di osare in ogni atteggiamento del quotidiano, quindi che cosa pensiamo sia impossibile provarlo a fare. Mi auguro che in questo spettacolo ci sia anche questo invito al pubblico di proprio osare andare oltre i limiti che ci diamo e ci si dà giorno per giorno, insomma. Senti, questo sottotitolo 10 esercizi per nuovi virtuosismi. Sì, perché semplicemente lo spettacolo è proprio composto da 10 esercizi e quindi l'idea è quello di... sono esercizi più che altro, non tanto come vediamo al circo, non è tanto l'esercizio fisico, ma è come il pubblico riesce a stare sempre più a proprio agio e bene in teatro grazie a questi esercizi che vengono proposti da Claudia. Sono esercizi che il pubblico stesso a un certo punto è invitato a... Ma non svelo troppo, Sì, perché sennò poi certo. dopo comunque è invitato proprio a intervenire. Ovviamente è sempre guidato da Claudia, e in modo tale che proprio alla fine ci sia un benessere da parte di tutti nello stare insieme in quello spazio teatrale che ci unisce, un benessere che è fisico, ma anche proprio di agio, di sentirsi sereni in uno spazio tutti insieme. Come ha avuto origine questo lavoro? Ma in realtà è dal 2009 che come danzatrice ho avuto questo cambiamento nel mio corpo, nel senso che nel 2009 ho vinto il premio per la giovane danza d'autore con uno spettacolo che si chiamava Corpo Libero ed è nato proprio nel momento in cui come danzatrice ho avuto un cambiamento nel corpo e ho iniziato a partire, cioè prendevano più volume, quindi in certo senso dico sempre il corpo danzava a prescindere dal controllo, nel senso che c'erano delle parti più morbide, più molli del mio corpo che si muovevano. Quindi mi sono chiesta in che modo possono danzare, in particolare usando il lavoro sulla performing arts, dove il corpo diventa protagonista e opera d'arte. E da lì sono passati tanti anni, a corpo libero continuo a viaggiare e a essere fatto in diversi festival nazionali e internazionali della danza. E facendo un laboratorio, insegnando, ho incontrato Claudia Marsicano e ho deciso di continuare a fare questo lavoro su il corpo nelle parti più muscolari e non che cosa può esprimere nella danza, chiedendole appunto di partecipare a questa performance. E l'ho conosciuta poi a un laboratorio di danza. Senti, il vostro rapporto artistico? La domanda, cioè, com'è? No, come vi Guarda, siete trovate a lavorare insieme tu e siamo molto Claudio? unite perché diciamo c'è stata una recensione che aveva detto l'unità e completezza tra l'autrice e la giovane attrice Claudia Sì. Marsicano, ed è proprio così. Claudia ha un grande talento, è un'attrice di cui dobbiamo veramente essere fieri in Italia, e il suo talento è quello proprio di comprendere la poetica e trasmetterla al meglio. e lei è proprio riuscita a catturare ogni micro dettaglio che le chiedevo e di riuscirle a portare in maniera sul palco in maniera perfetta, divina, veramente. Quindi c'è una grande, sì, siamo veramente una al prolungamento dell'altra. E per me è anche una grande esperienza vedere che una persona più giovane cresca così tanto in 2 anni nel lavoro, perché insomma è una delle mie prime performance dove sono fuori dal palco, per cui è stato un onore e anche una grande fortuna incontrare un'attrice così brava, giovane, ma così anche che si dedica in maniera così seria a questo lavoro. Quindi le auguro anche che proprio Claudia di fare tanti altri personaggi che le permettano anche di esplorare tante, tante capacità diverse che lei ha, perché ne ha veramente tante. Alle volte in Rosa, che forse si esprime più in un genere che è più legato al corpo, al movimento, è un po' magari limitata in qualche modo, a mio avviso. Lei veramente può fare molti altri personaggi nel teatro, perché chiaramente è un'opera che è più legata alla danza, quella di Rosa. Senti, per quanto riguarda questo lavoro, ma e più in generale sulla tua opera, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Ma sicuramente c'è il sito che è www.silviagribaudi.com, lo spettacolo è R.osa, ma lì si trova anche immagini e altri progetti, lavorando con donne over 60, insomma ci sono veramente progetti per tante forme diverse di corpi. Questo progetto qui è ispirato alle opere di Botero e anche un po' al mondo di Jane Fonda, quindi un mix strano di ingredienti. Però sul sito trovate tutte le informazioni, si trovano tutte le informazioni su questo spettacolo e anche altri. Benissimo, allora ricordiamo Rosa 10 esercizi per nuovi virtuosismi con Claudia Marsicano in scena, uno spettacolo di Silvia Gribaudi che sarà in scena al Funaro di Ostia il 23 e 24 febbraio. Silvia, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, a presto, grazie a tutti, arrivederci.